È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fattimi andare dalla mamma a prendere latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso. Se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fattimi andare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Dai, scendi, vieni giù. Vista uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fattimi andare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno.